se un ragazzo si sente come uno che parte o che muore e scopre che non conta niente, che il mondo è più grande di un cuore. Nel cuore il ragazzo coltiva la rosa più bella che c'è, ma attento che la rotativa si porta la rosa con sé. Rotativa, ruota gigante, ruota motore, ruota che fa un'ora, un minuto, un istante, ti butta di qua poi di là. Un uomo va controcorrente con tutto il coraggio che può, ma un giorno si stanca e comprende che il fiume è più forte, però vorrebbe trovare la riva e farsi lasciare dov'è. Ma attento che la rotativa si porta la riva con sé. Rotativa, ruota gigante, ruota motore, ruota che va un'ora, un minuto, un istante, ti butta di qua poi di là. A volte la gente protesta e scende per strada a cantar. È come vedere una festa, il popolo intero che va. La rabbia non ha alternativa, laddove l'amore non c'è. Ma attenti che la rotativa si porta la rabbia con sé. Rotativa, ruota gigante, ruota motore, ruota che fa un'ora, un minuto, un istante, ti butta di qua poi di là. La rosa, la riva, la rabbia volarono al vento così. Son come castelli di sabbia che ognuno di noi costruì. E mentre si va alla deriva ci resta un ricordo, finché non cade nella rotativa che porta il ricordo con sé. Rotativa, ruota gigante, ruota motore, ruota che va un'ora, un minuto, un istante, ti butta di qua poi di là. Rotativa, ruota gigante, ruota motore, ruota che va un'ora, un minuto, un istante.